tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulle unioni civili sono riuniti i senatori del PD verso lo stralcio dell'adozione del figlio del partner. I 5 Stelle dicono la legge è votabile in 3 giorni e Renzi è un cacasotto. In arrivo un rapporto duro della Commissione europea sull'economia italiana. Debolezza strutturale, crescita modesta, rischi per le altre economie dell'Unione. Caso Abu Omar, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per il rapimento dell'imam da parte della CIA. Violati i diritti umani. L'NSA monitorò le conversazioni di Berlusconi e dei suoi nella fase acuta della crisi, lo rivela Wikileaks. Forza Italia chiede una commissione d'inchiesta. L'utilizzo della base di Sigonella da parte degli americani per incursioni in Libia non è il preludio ad un intervento, dice il ministro Gentiloni. La Siria intanto accetta l'accordo per il cessate il fuoco. La battaglia tra Apple ed FBI per decrittare i contenuti di un iPhone. Si schiera anche Bill Gates a favore del Federal Bureau of Investigation. Calcio la Juventus, questa sera la prova del Bayern in Champions League. Allegri dice abbiamo tante possibilità di passare. Guardiola, un match complicato, ma faremo il nostro gioco. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, come sempre in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura, dunque, torniamo a parlare di unioni civili, perché come si usa dire sono ore decisive. Questa mattina si sono riuniti i senatori del Movimento 5 Stelle, ma l'appuntamento più importante è in corso in questi minuti. Si tratta dell'Assemblea dei senatori del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, unioni civili, forse questa potrebbe essere la settimana buona. È riunita al Senato il gruppo PD insieme al Premier Matteo Renzi, per il quale bisogna chiudere entro questa settimana e poi il provvedimento deve passare alla Camera per un'approvazione definitiva. Il Presidente del Consiglio riconosce che il disegno di legge potrebbe non rispondere alle attese di tanti, soprattutto dopo lo stralcio della stepchild adoption, ma è meglio un pezzo oggi che tutto mai. E c'è da registrare l'apertura della minoranza Dem al pacchetto Renzi, basta però di che non sia uno stravolgimento del testo. Dalla rete però i sostenitori PD chiedono di convocare la direzione del partito. Per Angelino Alfano, nuovo centrodestra, prevale il buon senso, ma ci sono ancora aspetti da ritoccare ed è anche il giorno in cui il presidente del Senato Pietro Grasso ha giudicato inammissibili i 7 emendamenti premissivi al disegno di legge Cirinna, i cosiddetti super canguri. C'è stata poi una sensibile scrematura degli emendamenti, che saranno circa 500. Si va verso un testo senza il capitolo adozioni, ma con la possibilità di reversibilità della pensione per le coppie omosessuali. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. L'altro fronte, come si diceva, è quello delle opposizioni, a partire appunto dai 5 Stelle, mentre è attesa per oggi una conferenza stampa degli organizzatori del Family Day. Bene, sentiamo intanto cosa dicono i grillini. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Fronte delle opposizioni che si divide tra critiche alle regole procedurali, da una parte quindi il Movimento 5 Stelle e dall'altra Forza Italia, Lega, che bocciano i contenuti del disegno di legge Cirinnà. In mezzo il complesso mondo dei centristi, anche di opposizione, che comunque pesa nei numeri a Palazzo Madama, ma partiamo dai 5 Stelle. Conferenza stampa questa mattina al Senato. La posizione non cambia, no ai cosiddetti super canguro, sì alla legge, ma votando tutti gli emendamenti. Perché Renzi si oppone a questo, si chiedono dal movimento di Grillo. Roberto Fico, del direttorio, dà una risposta. Sentiamo. Renzi in questo momento sta camuffando i problemi che ha nel portare avanti la maggioranza, facendo una becera battaglia politica sui diritti, perché ha paura di quello che può muovere questa legge all'interno della sua maggioranza. Se avesse coraggio, se il PD avesse coraggio e fosse un po' meno cagasotto, perché il PD in questo caso questo sta facendo, dovrebbe venire in aula e votare i 500 emendamenti insieme a noi. No, logicamente alla fiducia, dicono i 5 Stelle, qualora fosse posta sull'emendamento sull'intero provvedimento. Sulle unioni civili Renzi e il suo governo hanno commesso un errore dopo l'altro, dice da Forza Italia la Carfagna. Porre la fiducia sarebbe una follia. Pressing sulla maggioranza oggi anche dal mondo del Family Day, con una conferenza stampa nel pomeriggio al Senato. È tutto, linea allo studio. E c'è un altro punto interessante che riguarda le unioni civili, ci arriveremo tra poco, perché il DDL Cirinna non regola solamente appunto le unioni civili tra persone persone dello stesso sesso, ma interviene anche sul tema delle convivenze anche tra persone eterosessuali. È un tema del quale si è parlato molto poco, lo affronteremo più avanti insieme ad una sentenza che è in arrivo, della quale dovrebbe discutere la Corte Costituzionale domani, proprio sulla stepchild adoption. Tutto questo tra poco. Intanto veniamo agli altri problemi per l'esecutivo e riguardano il complesso rapporto con l'Europa. Il fronte è aperto, si arricchisce di un nuovo capitolo, un rapporto nel quale si indica il nostro paese come un rischio economico per altre economie. Un debito italiano ancora troppo alto, ma passi in avanti sulle riforme. La pagella in arrivo da Bruxelles fotografa uno scenario ormai noto. Ci racconta Patrizia Toia, capodelegazione PD al Parlamento europeo. Sul debito la situazione sta migliorando e lo riconoscono anche loro. Riconoscono che naturalmente ci vuole del tempo per rientrare, ma anche che la strada è cominciata. Punto dolente, le imprese. Fare business in Italia è più difficile rispetto agli altri big europei, scrivono i tecnici della Commissione, puntando il dito contro fisco, burocrazia e giustizia. In più, il debito pubblico monstre blocca crescita e investimenti. Nel mirino anche le sofferenze bancarie decisamente elevate, nonostante la situazione stia migliorando. Da qui le conclusioni. La modesta crescita e la debolezza strutturale italiane potrebbero avere rilevanti conseguenze sulle altre economie, avverte Bruxelles. Per fortuna qualche nota positiva c'è. Il nostro è un paese che fa poco progressi grazie alle riforme di mercato del lavoro e alle privatizzazioni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono le telefonate tra l'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e i suoi collaboratori, ma anche conversazioni dirette con leader politici come Benjamin Netanyahu, che venivano monitorate dallo Special Collection Service, che è l'unità speciale dell'NSA, la National Security Agency, che opera sotto copertura diplomatica. È quello che emerge dai nuovi file di Wikileaks, che sono stati pubblicati in Italia da Repubblica e dall'Espresso assieme ad un team di media internazionali. C'è il report dell'NSA, tra l'altro, di un incontro che si è tenuto il 22 ottobre 2011 tra l'allora presidente del Consiglio, l'ex presidente francese Sarkozy e la cancelliera Merkel, nel quale Sarkozy avrebbe detto a Berlusconi che le istituzioni finanziarie italiane potrebbero presto saltare in aria come il tappo di una bottiglia di champagne e che le parole non bastano più. Forza Italia chiede l'attivazione di una commissione d'inchiesta e che il governo chiarisca al più presto. Le vicende internazionali ci portano a parlare innanzitutto della Libia e del fatto che l'Italia ha messo a disposizione la base di Sigonella per incursioni americane nel paese, a patto che non siano a scopo offensivo. Il servizio. I droni che gli Stati Uniti utilizzeranno per colpire l'ISIS in Libia potranno decollare anche dalla base siciliana di Sigonella. Anticipato ieri dal Wall Street Journal, il via libera del governo italiano arriva dopo mesi di pressioni da parte dell'alleato americano. Fino ad oggi gli aerei senza pilota statunitensi che partivano dal nostro paese venivano impiegati solo per missioni di ricognizione. D'ora in poi, invece, potranno essere utilizzati anche armati, ma soltanto con il compito di proteggere le operazioni delle forze speciali contro terroristi e potenziali attentatori dell'ISIS. L'autorizzazione verrà data caso per caso, hanno specificato il premier Renzi e il ministro degli esteri Gentiloni. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che l'utilizzo delle basi non è preludio ad un intervento militare e non richiede una specifica comunicazione al Parlamento. Dall'opposizione però, Sinistra Italiana ha già chiesto al governo di informare le Camere sui contenuti dell'accordo con gli Stati Uniti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto, su uno degli altri fronti nei quali agisce l'ISIS, la Siria, arriva dal governo siriano l'accettazione della proposta russo-americana di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di sabato prossimo 27 febbraio. Il ministro degli esteri dice però che le autorità continueranno a combattere non solo contro l'ISIS e il fronte al-Nusra, ma anche contro gli altri gruppi terroristi. Il punto è che il governo siriano considera terroristi tutti i gruppi armati delle opposizioni. Anche di questi temi torneremo a parlare più avanti. E veniamo al caso Abu Omar, lo sentivate già nei titoli, è arrivata la condanna della Corte di Strasburgo, ci spiega tutto la nostra Raffaella Calandra che è in studio con me. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Questa innanzitutto possiamo dire che è la vittoria della Procura di Milano e soprattutto dell'allora capo del Dipartimento Antiterrorismo, ora procuratore a Torino, Armando Spataro, perché è una vicenda che si trascina da anni. La Corte di Strasburgo ha condannato infatti l'Italia per la vicenda Abu Omar, l'extraordinary rendition sono, vale a dire il rapimento dell'ex imam di Viale Jenner ad opera della CIA in una operazione antiterrorismo il 17 febbraio 2003. La Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito infatti che il nostro paese dovrà risarcire Abu Omar e la moglie con 70.000 euro l'uno, 15.000 la seconda, perché le autorità italiane erano a conoscenza, spiegano i giudici, del fatto che Abu Omar fosse stato vittima di un'operazione di quel tipo, come ce ne furono in più parti d'Europa, ma ha comunque permesso il suo trasferimento in Egitto, dove fu torturato anche, come lui stesso, lo stesso Abu Omar, raccontò all'epoca a Storiacce di Radio 24. E inoltre Strasburgo ha anche stabilito che l'Italia, questo è un altro punto centrale, ha abusato del segreto di Stato. Fu infatti la ripetuta opposizione di quel segreto, opposta da quattro diversi governi di colore politico differente, a far sì che alla fine il processo contro gli ex vertici dei servizi segreti militari italiani, ossia Niccolò Polleri e Marco Mancini, si concludesse con l'annullamento delle iniziali condanne a 10 anni, proprio perché la copertura dell'immunità sugli 007 rendeva impossibile perseguire l'azione penale, come stabilì la Cassazione. Questione questa che portò all'epoca appunto ad un duro braccio di ferro tra la Procura di Milano e Palazzo Chigi. Tra l'altro, proprio pochi mesi fa, prima della conclusione dell'anno, l'ex capo della CIA in Italia, Seldon Lady, condannato per la vicenda Abu Omar, ha beneficiato del provvedimento di grazia da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Grazie Raffaella Calandra, anche a te per questo aggiornamento. A proposito di terrorismo, è prevista tra circa un'ora la decisione del GUP di Milano, Donatella Banci, Buonamici, sul caso di Maria Giulia Fatima Sergio, la prima foreign fighter italiana che si troverebbe in Siria a combattere a fianco delle milizie dell'ISIS. Il giudice, che è entrato in Camera di Consiglio, deve decidere se mandare a processo o meno la ragazza accusata di terrorismo internazionale e gli altri quattro imputati, tra cui il padre che venne arrestato lo scorso luglio assieme alla madre della giovane. Siamo alla vicenda che vede opposte Apple e l'FBI. Gli investigatori americani, lo ricordiamo, chiedono all'azienda di Cupertino un software, una cosiddetta backdoor in realtà, per decrittare i contenuti del telefono di uno degli autori della strage di San Bernardino, dove nel dicembre scorso due persone legate all'estremismo islamico uccisero 13 persone e ne ferirono più di 20. Come sapete, la Apple ha rifiutato, adducendo come motivazione i rischi che la creazione di un software di questo tipo creerebbe per tutti gli utenti dell'iPhone. Oggi interviene anche Bill Gates. Intervistato da Stephen Foley del Financial Times, il fondatore di Microsoft sostiene che Apple dovrebbe collaborare con l'FBI e aiutare gli investigatori a decifrare il contenuto dell'iPhone di uno dei terroristi che il 2 dicembre a San Bernardino in California hanno ucciso 14 persone. This is a specific case where the government's asking for access to information. They're not asking for some general thing, they're asking for a particular case. Secondo Bill Gates, questo è un caso specifico e il governo non sta chiedendo qualcosa di generale, ma solo di particolare. E questo è il punto. Secondo Apple, un software in grado di violare l'iPhone del terrorista potrebbe essere usato in seguito su qualsiasi telefono e se finisse nelle mani sbagliate metterebbe a rischio tutti gli iPhone del mondo e i dati di milioni di persone. I vertici di Google, Facebook, Twitter e della stessa Microsoft sono d'accordo con Apple e quella di Bill Gates è una posizione isolata nell'industria della tecnologia, ma condivisa da almeno metà dell'opinione pubblica americana. Apple ha tempo fino a venerdì per spiegare al tribunale le proprie ragioni. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca dopo il blitz di ieri del collettivo CUA, anche questa mattina la lezione che il professor Angelo Panebianco, politologo, editorialista del Corriere della Sera, stava tenendo a Scienze Politiche a Bologna, è stata interrotta da una contestazione messa in atto da alcuni studenti che sedevano tra i banchi. Incalzato da una serie di domande provocatorie, il docente ha deciso di sospendere la lezione e spostarla in un'altra aula. Vedremo se avremo spazio per affrontare questo argomento più avanti. Stiamo cercando di collegarci con la stessa Università di Bologna. E poi l'altra notizia di cronaca di questa mattina è la rapina con sparatoria avvenuta in un ufficio postale di Roma. Due rapinatori hanno sparato contro alcuni poliziotti dopo aver rapinato appunto un ufficio postale in via Vapellice a Montesacro. La polizia ha risposto al fuoco dopo aver intimato l'alta. I due che sono riusciti a fuggire al momento non si segnalano feriti. Noi adesso torniamo alla politica con la vicenda delle candidature a Roma che continuano a creare problemi nel centrodestra. Questo è dedicata all'analisi del martedì del nostro Daniele Biacchessi. A pochi mesi dalle elezioni amministrative non vi è unità nei potenziali schieramenti di centro-sinistra e centro-destra e il personalismo locale regna sovrano a discapito del bene comune. Giuseppe Sala, uscito vincente alle primarie del PD di Milano, è riuscito certamente a convergere sul suo programma Francesca Balzani e Pierfrancesco Maiorino, ma non parte del loro elettorato, la sinistra, alcuni esponenti socialisti e ampi pezzi della società civile, che invece lavorano alla costituzione della lista Milano in Comune. A Roma mancano 2 settimane alle primarie del PD del 6 marzo, ma in città non se n'è accorto nessuno. Nessun manifesto, nessuna comunicazione su dove si vota, orari, modalità. Il rischio flop è dunque reale, mentre volano gli stracci tra il renziano Roberto Giacchetti e il candidato della sinistra Dem Roberto Morassut. Nel centrodestra della capitale, Bertolaso divide invece di unire, tanto che il segretario della Lega Matteo Salvini invoca le primarie. A Napoli la candidatura di Antonio Bassolino sta spaccando il PD e più in generale il centro-sinistra. Il capoluogo campano esce, come Milano, da un'altra esperienza amministrativa, quella di Luigi De Magistris, figlia del movimento arancione, che però ha portato a sviluppi del tutto diversi rispetto a quelli di Pisapia. Qualcosa di più si capirà al termine delle primarie di Roma e Napoli del 6 marzo, ma al momento per le prossime amministrative è in atto una sorta di tutti contro tutti. Siamo al calcio, l'attesa è tutta per la partita tra Juventus e Bayern di questa sera, la seguirà il nostro Dario Ricci, dal quale ci facciamo dare anche qualche anticipazione, un po' di racconto di queste ore che la precedono. Dario, buongiorno. Buongiorno, beh, anche stasera a Torino mi aspetto anche lì un tutti contro tutti, Simone, perché è il primo tempo di una sfida che si gioca sui 180 minuti, ma insomma questi primi 90 dello Juventus Stadium tra Juventus e Bayern Monaco potrebbero già essere decisivi. Al momento del sorteggio Bayern, che era nettamente favorito, poi il pilotto di risultati infilato appunto dalla Juventus, che l'ha riportata in testa alla classifica, rende lo scontro quantomeno più equilibrato sulla carta. Juventus che ritrova in attacco Mandzukic, che farà coppia con Dybala, ma che deve fare conto anche delle assenze pesanti di Asamoah, Alex Sandro, Chiellini e Caceres. Per altri aspetti non sta meglio il Bayern, che ha le assenze concentrate nel reparto dei centrali difensivi. Mancano Bastuber, Martinez e Boateng, ma insomma Pep Guardiola ha una rosa che può far fronte a qualsiasi assenza. Occhi puntati su tanti campioni, soprattutto direi quel Lewandowski, bomber d'eccezione dei bavaresi, alla prova del duo difensivo Bonucci-Barzagli, che insomma magari in Bundesliga incontra piuttosto raramente. Duello stuzzicante tra i tanti di serata, occhio anche ai due ex juventini che partiranno, secondo le anticipazioni, della panchina tra i rossi di Baviera, cioè Vidal e Coman. Rischio di iniziare alle 20:45, vi racconteremo tutto come sempre da Torino. Grazie Dario Ricci, dunque a stasera da Torino. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e tra un attimo, nella seconda parte della trasmissione, insomma, un minuto circa, torneremo a parlare del DDL Cirinnà, ma non tanto del tema delle unioni civili, come si diceva, tra persone dello stesso sesso, ma della parte che regolamenta le convivenze. Riguarda milioni di persone in Italia e però finora il dibattito si è concentrato su quello e veramente se ne è parlato poco. A tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sulle unioni civili sono riuniti i senatori del PD, si va verso lo stralcio dell'adozione del figlio del partner, i 5 Stelle dicono la legge è votabile in 3 giorni. E in arrivo un rapporto piuttosto duro della Commissione Europea sull'economia italiana, debolezza strutturale, crescita modesta, rischi per il resto dei paesi europei. Caso Abu Omar, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per il rapimento dell'imam da parte della CIA, sono stati violati i diritti umani. NSA monitorò le conversazioni di Berlusconi e dei suoi nella fase acuta della crisi del 2011, lo rivela Wikileaks, Forza Italia chiede una commissione d'inchiesta. L'utilizzo della base di Sigonella da parte degli americani per incursioni in Libia non è il preludio ad un intervento, lo dice il ministro Gentiloni, di questo torneremo a parlare tra un attimo, ma intanto torniamo a parlare del DDL Cirinnà e quindi nella fattispecie non di unioni civili, ma dell'altra parte del DDL Cirinnà, quello del quale si parla molto poco e che avrà avrà impatto sulle vite di milioni di italiani. Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno. Presidente dei Matrimonialisti Italiani, con lei vogliamo parlare della regolamentazione delle convivenze che arriva appunto con il DDL Cirinnà. Ci spiega come si struttura? Ma guardi, fondamentalmente nel nostro paese negli ultimi anni si è ridotto il numero dei matrimoni e sta aumentando in maniera esponenziale il numero delle convivenze more uxorio di fatto, cioè di coppie che hanno una struttura sovrapponibile a quelle degli sposati, per cui un problema sociale grosso. In questo momento manca anche nel disegno di legge Cirinnà un impianto normativo che tuteli concretamente questi milioni di persone che tra l'altro mettono al mondo figli, ben tantissimi, 100.000 bambini ogni anno nascono da queste coppie a fronte dei 500.000 totali, quindi una Italia soprattutto da Roma in su che non vuole più assolutamente il matrimonio, sceglie forme alternative, ovviamente che hanno però bisogno di un minimo di normativa. Sì. Che cosa prevede il DDL Cirinnà su questo fronte? I cosiddetti patti di convivenza si possono regolamentare cose riguardo l'assegno, riguardo la gestione della casa, della famiglia, riguardo eventualmente l'utilizzo di beni, automobili e quant'altro, ma dal punto di vista invece normativo, codicistico, non c'è nulla, cioè tutto è demandato alla libertà contrattuale dei conviventi. Allora, noi riteniamo che negli altri paesi, quando la cosa Però mi scusi, nella Gassani, nella Cirinnà in realtà è previsto, per esempio, degli elementi che riguardano il mantenimento nel caso che la coppia si lasci e cose di questo genere, o no? Sì, il mantenimento era stato previsto, ma non in che misura, perché per esempio se nelle unioni civili c'è comunque il criterio che più o meno soprattutto delle separazioni e dei divorzi, nelle convivenze more uxorio eterosessuali il disegno di legge Cirinnà non chiarisce in che termini si parla di assegno, come viene commisurato, se è un assegno alimentare, se è un assegno di mantenimento, se è un assegno cosiddetto perequativo, cioè tre tipi di assegni che vanno spiegati, sarebbe molto lunga. Cioè, praticamente noi non sappiamo quale sarebbe il criterio per stabilire se l'altro convivente, ex convivente, magari mandato via di casa, abbia diritto a un mero assegno alimentare che può essere di 200 euro, di mantenimento che essere pari più o meno a un tenore di vita goduto in costanza di convivenza. Sì. Non si capisce se per esempio dopo quanti anni scatta il diritto all'assegno. Sì. Non si capisce se ci sarà l'assegno di reversibilità in caso di morte. Tutto questo secondo me andrebbe chiarito perché negli altri paesi d'Europa non si guarda soltanto la perché si rischia si rischia poi che il convivente, per così dire svantaggiato, faccia appello a questa legge e poi finisca il tutto in una serie di decisioni dei giudici che possono essere una diversa dall'altra, in sostanza. Assolutamente sì. In questa fase di anarchia normativa. È evidente che poi tutto è demandato alla sensibilità del singolo magistrato. Senta, un'ultima domanda: è circolata nei giorni scorsi l'idea che di fatto il DDL Cirinnà costringesse le coppie conviventi a registrare questa loro convivenza. È effettivamente così? No, non credo. Si tratta sempre di una scelta. Nel momento in cui ci si registra, bisogna sapere però che si dovrebbe andare incontro dei diritti e dei doveri. Ora, siccome nel nostro paese purtroppo spesso e volentieri dopo magari 10 o 15 anni di convivenza uno decide di mandare via da casa l'altro e l'altro va sotto i ponti, questo non debba avvenire. Certamente si tratta anche di una libera scelta, ci sono varie forme di convivenza, c'è una convivenza assolutamente fuori da ogni contratto, da ogni registrazione al comune, da ogni iscrizione, e va bene. Poi ci sono le convivenze vere, quelle con lo stato di famiglia, con i figli, sì, che hanno diritto ad una tutela. Cioè il ricattuccio di dire o vi sposate o non avete diritti, secondo me non appartiene a un paese, perché questo è il messaggio che viene dato, a meno che tu non sia omosessuale, a quel punto hai le unioni civili che sono praticamente identiche al matrimonio. Al matrimonio nella sostanza. È inutile negarlo, chi fa diritto di famiglia, sia che sia magistrato o avvocato, sa perfettamente che il disegno di Cirinnà non fa altro che creare il matrimonio delle persone dello stesso sesso, che a me tra l'altro non dispiace affatto, sì, anzi mi fa molto piacere, però diamo il nome giusto alle cose. Alle cose, si tratta di matrimoni, punto, basta. La ringrazio, grazie a Gianettore Gassani, presidente dei Matrimonialisti Italiani. Adesso torniamo ad occuparci di Libia appunto e della concessione che già qualche polemica sta suscitando della base di Sigonella per il decollo di droni americani verso la Libia, non per scopi offensivi, questo viene riferito. Il ministro degli esteri Gentiloni, dice non è il preludio ad un intervento. Di questo vogliamo parlare con Gianandrea Gagliani, che è direttore di analisi difesa, commentatore per Il Sole 24 Ore anche di queste cose. Gianandrea, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Davvero, come dice Gentiloni, non è il preludio ad un intervento? Sì, non è il preludio, perché in realtà le incursioni dei droni americani, o comunque le incursioni degli aeroplani, delle forze speciali americane, come quello di venerdì scorso contro, per uccidere un leader dell'ISIS responsabile di attentati in Tunisia e nel campo dell'ISIS di Sabrata, in Tripolitania occidentale, fa parte di quella serie di attacchi mirati contro i leader di movimenti estremisti jihadisti, Al-Qaeda prima, oggi per lo più questo Stato Islamico, che gli americani hanno sempre effettuato fin da dopo l'11 settembre 2001, prima con l'amministrazione Bush, poi in maniera anche più eclatante con l'amministrazione Obama. Sono incursioni mirate contro questi leader e il caso di venerdì scorso è emblematico. Quell'attacco si poteva effettuare con i droni Bassetti e Sigonella, l'Italia non l'ha autorizzato perché era un'azione offensiva, cioè diretta a uccidere un nemico, un capo terrorista individuato in quella zona. L'Italia invece autorizza solo dall'inizio di quest'anno l'uso degli aeroplani americani da basi italiane, Sigonella in particolare, per azioni difensive. Per fare un'ipotesi, nel caso forze speciali già in Libia o civili fossero minacciati da azioni terroristiche o attacchi, l'Italia caso per caso si riserva di autorizzare l'impiego degli velivoli americani dalle nostre basi. Ma da un punto di vista, scusa Gianandrea, questo, da un punto di vista strettamente legale, non richiede un'autorizzazione parlamentare una cosa di questo genere, vero? Ma noi abbiamo un accordo con gli americani per l'utilizzo delle basi che risale al 54 e che, cioè 54 e che in parte ha delle clausole segrete. Che l'Italia precisi i termini con cui queste basi possono essere usate per azioni offensive, azioni militari, azioni belliche, dimostra da un lato due cose. La prima è che l'Italia vuole mantenere la sua sovranità sull'impiego. Noi sappiamo che l'Italia si rifiuta di partecipare ad azioni belliche contro l'ISIS. Anche i nostri aeroplani schierati in Kuwait che volano sull'Iraq volano disarmati, i nostri bombardieri Tornado. E l'Italia precisa anche in questo modo che neppure paesi alleati come gli Stati Uniti possono condurre azioni di questo tipo dalle basi italiane senza l'autorizzazione del governo. Dall'altro, ed è l'aspetto forse più critico, nessuno in questo momento sta minacciando seriamente lo Stato Islamico in Libia e questo continua ad allargarsi. Il caso paradossale è che l'attacco di venerdì ha colpito un leader terrorista dell'ISIS che aveva organizzato due attentati a Tunisi, in quello contro il Museo del Bardo, e a Sousse sulla spiaggia, dove vennero uccisi cittadini europei, anche italiani nel caso del Bardo, ma nessun cittadino americano. E quindi il fatto paradossale che l'Italia non ha consentito l'uso delle sue basi per colpire un capo terrorista che aveva ucciso anche cittadini italiani. Gianandrea, in 30 secondi sull'altro fronte che coinvolge sempre l'ISIS, ossia la Siria, è arrivato questo accordo tra Obama e Putin per un cessate il fuoco a partire da sabato notte, da sabato 27 febbraio, sabato prossimo. Oggi il governo siriano ha detto noi ci stiamo, ma continueremo a colpire i terroristi, che suona un po' come dire ci stiamo, ma in realtà il cessate il fuoco non lo applicheremo. Ma sai, qui in questa guerra tutti chiamano i nemici terroristi, per i siriani la gran parte dei movimenti che combattono Assad sono terroristi, per gli americani stessi e per i russi questa tregua non vale per le forze dello Stato Islamico, per i qaedisti del fronte al-Nusra e per altri due movimenti salafiti. Il problema vero è che questa tregua, a mio parere, io sono molto scettico sul fatto che possa essere applicata. Perché? Perché semplicemente per il fatto che la gran parte del territorio siriano oggi in mano ai ribelli anti-Assad è proprio territorio controllato da questi movimenti, che sono quelli jihadisti, l'ISIS, Al-Qaeda, i movimenti salafiti, che sono anche militarmente quelli più forti perché hanno sempre avuto il sostegno dei paesi arabi sunniti e della stessa Turchia. Ti ringrazio, grazie a Gianandrea Gagliani, direttore di analisi difesa, commentatore per Il Sole 24 Ore di vicende militari e strategiche. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa come sempre alle 13.30 e poi nella seconda parte della trasmissione vi vogliamo raccontare una storia, la storia di un dipendente delle poste che si era rifiutato sostanzialmente di lavorare di domenica perché dice io sono cattolico e di domenica non lavoro. Ebbene, c'è stata una lunga trafila giudiziaria, alla fine la Cassazione gli ha dato ragione. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli, Unioni Civili, c'è Renzi che sta parlando in questi minuti e si rivolge ai 5 Stelle, il PD non può essere preso in giro, si va intanto verso lo stralcio dell'adozione del figlio del partner. In arrivo un rapporto della Commissione Europea sull'economia italiana, si parla di debolezza strutturale, crescita modesta, rischi per le altre economie dell'Unione, si promuovono anche alcune riforme. L'NSA monitorò le conversazioni di Berlusconi e dei suoi nella fase acuta della crisi del 2011, lo rivela Wikileaks. Forza Italia chiede a Renzi di riferire in Parlamento e chiede anche una commissione d'inchiesta. L'utilizzo della base di Sigonella da parte degli americani per incursioni in Libia non è il preludio ad un intervento, l'abbiamo raccontato poco fa, queste sono le parole del ministro Gentiloni. E la battaglia tra Apple ed FBI per decrittare i contenuti di un iPhone, si schiera anche Bill Gates a favore appunto degli investigatori americani. La borsa. Effetto giorno. Adesso parliamo di una storia in realtà che arriva da lontano, come sempre le vicende giudiziarie italiane durano parecchio, e riguarda il tema del turno domenicale alle poste nel centro meccanizzato di Peschiera Borromeo. Per farla molto semplice, succede che un lavoratore aveva deciso di non lavorare la domenica perché dice, ha detto, sono cattolico, io di domenica non voglio lavorare. E per farla molto breve, dopo una serie di sentenze, la Cassazione gli ha dato ragione. Sergio Galleano, l'avvocato che ha difeso questo lavoratore. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Ci dà qualche dettaglio in più di contorno per capire esattamente che cosa è successo? Il lavoratore aveva comunicato all'azienda già nel settembre del 2004 che non avrebbe inteso adeguarsi alle direttive aziendali che prevedevano appunto l'obbligo di lavorare a turno la domenica. Peraltro questa decisione aziendale non era stata concordata con i sindacati, laddove invece il contratto collettivo prevede espressamente che i lavoratori che appartengono alle chiese cristiane avventiste, alla religione ebraica, viene riconosciuto il diritto di fruire della richiesta del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale. Sì. Quindi direi che c'è anche un principio di eguaglianza, voglio dire, che legittimava il lavoratore, diciamo, a chiedere di non lavorare la domenica. Ci sono poi tutta una serie di aspetti secondari che qualificavano questo caso specifico, cioè il lavoratore si era presentato il giorno successivo in cui avrebbe dovuto riposare. Sì. E quindi, voglio dire, c'era un comportamento del lavoratore che ha indotto i giudici di merito a ritenere sproporzionata la sanzione. E che la sanzione era, di fatto, gli hanno tolto lo stipendio per quel giorno, in sostanza, no? Un giorno di sospensione. La multa, la retribuzione per un giorno e la sospensione dal lavoro, per quel giorno. Ma lei ci ha parlato appunto di quello che è previsto per le persone di religione ebraica e per alcune confessioni cristiane. Questo lavoratore è cattolico, però, mi sembra di aver capito. Questo lavoratore è cattolico, il contratto collettivo ovviamente non prevedeva questa fattispecie. Diciamo che in realtà la Corte non si pronuncia sul diritto del lavoratore cattolico a non lavorare la domenica. Questo perché l'oggetto della causa era semplicemente quello di valutare la correttezza della sentenza della Corte di Appello, questo è il compito della Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto comunque tranchant il fatto che la sanzione era sproporzionata in relazione a tutti, diciamo, i fatti e i contorni che cui ho parlato prima, insomma. Quindi quello che ci sta dicendo, in sostanza, a prescindere dal fatto che nel nostro sistema di diritto, come gli ascoltatori sanno, i precedenti non esistono, insomma, diciamo, non ci si può basare propriamente sui precedenti per delle sentenze, però, diciamo così, non costituisce un precedente in questo senso, cioè nel senso del poter dire, cioè questa sentenza di Cassazione che stabilisce che il lavoratore cattolico può rifiutarsi di lavorare di domenica. No, però la sentenza, fra tutti i motivi che valuta per considerare sproporzionata la sanzione, c'è proprio il fatto che il lavoratore era di religione cattolica e quindi giustamente riteneva di non dover lavorare. Quindi questo esclude, diciamo, una sua colpa, e per questo la sanzione poi è stata annullata. Avvocato, lei sa, diciamo, che il problema viene affrontato in via indiretta, ma comunque porta alla conclusione che è legittimo, insomma, se uno comunica, voglio dire, d'altronde lei può immaginare, avvocato, gli sms che ci stanno arrivando dai nostri ascoltatori, no? Che i buddisti avranno un giorno comandato, i testimoni di Geova, appunto, gli avventisti del settimo giorno, cioè, come dire, un pochino rischiosa, dicono, come sentenza. Sicuramente sì, però è anche vero che organizzazioni imprenditoriali come quelle di Poste possono benissimo programmare la loro attività e comunque in ogni caso regolare anche sindacalmente, cosa che non era stata fatta nella fattispecie, nella sentenza viene levata, organizzarci, cioè concordare sotto profilo sindacale con le organizzazioni dei lavoratori, diciamo un corretto utilizzo del turno domenicale e il rispetto delle singole religioni. Quindi, il caso, mettiamola così, avvocato, è il caso specifico, cioè non è che come dire, io domani posso andare da Radio 24 e se mi impone di lavorare di domenica, cosa che è successa e succede quotidianamente, come anche giusto che sia, e dirgli: guardate, sono cattolico, non lavoro. Beh, lì poi entra in gioco un profilo di proporzionalità che viene rivalutato dall'ordinamento europeo, soprattutto dalla CEDU, nel senso che se uno fa una certa scelta, quindi per esempio fa il giornalista, è ovvio che la domenica deve lavorare. Questo è in principio. Insomma, la ringrazio. Grazie avvocato Sergio Galleano. Le auguro una buona giornata. Brevemente, le dichiarazioni di Renzi all'Assemblea dei senatori del Partito Democratico, che chiarisce definitivamente, non avessimo capito, che la soluzione parlamentare andrebbe a lungo, troppo a lungo, questo è quello che sostiene, con il rischio che gli emendamenti facciano riaprire il discorso alla Camera e poi di nuovo al Senato sulle unioni civili. Quindi interviene direttamente il governo, è l'unico modo per dare una legge sulle unioni civili. Quindi appunto probabilmente si andrà alla fiducia. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.